Incontri di Gianfranco Fabi. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play? Con questa canzone di Cat Stevens iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano, buonasera Sergio Urbani. Buonasera. Sergio Urbani, segretario generale della Fondazione Calipro. Prima di parlare di lui, prima di parlare della Fondazione Calipro, perché Cat Stevens? Ma non è stato facile scegliere questa canzone, che vuol dire, è una bella canzone, ma soprattutto fa una domanda fondamentale: dove vanno a giocare i bambini? Si possono costruire aeroplani, costruire palazzi, fare di tutto e di più, ma ci sono delle domande che uno ha dentro a cui bisogna continuamente cercare di dare una risposta, anche molto adesso, semplici. Purtroppo il tempo passato davanti all'iPad o ai computer è sempre più alto, e quindi dove vanno a giocare i bambini è una domanda ancora più forte. Bisogna fare dei luoghi dove possono giocare. E lei si occupa anche di questo. La Fondazione Calipro, segretario generale della Fondazione Calipro, da pochi mesi dopo la scomparsa di Pier Mario Vello, è entrato, appunto, lei era già all'interno della Fondazione Calipro, peraltro. Sì, sono, diciamo, iniziato lì 10 anni fa con un progetto sul social housing. Poi ho avuto una parentesi in Cassa Depositi e Prestiti, dove ho seguito questo progetto che è diventato un programma nazionale, e poi appunto sono tornato in questa occasione infelice, però che ha lasciato una grande eredità nella struttura e nelle persone. Certo, abbiamo avuto ospite Mario Vello, così come abbiamo avuto ospite in passato anche il presidente Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Calipro. Ecco, facciamo un po' una carta d'identità della Fondazione. Che cos'è una fondazione bancaria, nata insieme alle altre fondazioni bancarie all'inizio degli anni 90? Che cosa fa? Una fondazione è un patrimonio con uno scopo. Qui il patrimonio sono circa 8 miliardi e mezzo di euro, che è, diciamo, il valore della vecchia cassa di risparmio delle province lombarde, e lo scopo è fare della filantropia, che poi si articola in piccole donazioni per piccoli progetti, ma anche in grossi progetti di ricerca, di tutela dell'ambiente, di servizio alla persona e sostanzialmente di innovazione sociale, ecco, se vogliamo chiamarla così. Ecco, continua un po' lo spirito ispiratore della Cassa di Risparmio. Non a caso il Consiglio d'amministrazione della Cassa di Risparmio di Provincia Lombarda si chiamava Commissione Generale di Beneficenza, e quindi questa forma, appunto, di beneficenza non era più logico che fosse attaccata alla struttura bancaria, si è appunto staccata. Il patrimonio però che il territorio ha messo insieme con una banca grande e importante come la Cassa di Risparmio Provincia Lombarda è passato alla Fondazione, che adesso ha una piccola quota di controllo di Banca Intesa San Paolo, però è piccola tra le tante altre quote di questa banca. Sì, è solo, quindi con le virgolette, del 4,8%, e diciamo pesa per circa 2 miliardi degli 8 miliardi e mezzo che menzionavo prima, quindi in termini relativi si è molto ridotta. Chiaramente rimane molto nella storia dell'ente e come l'ente si percepisce e viene soprattutto percepito. Ci vedono ancora come una banca. Ecco, come una banca, sì, anche se non è vero. Voi avete un compito da una parte di mantenere e valorizzare il patrimonio e dall'altra di operare sul territorio per iniziative di carattere, appunto, filantropico, di beneficenza, di carattere sociale. Quali sono le grandi aree in cui si muove la Fondazione? Quante risorse riesce a mobilitare ogni anno? Sono l'ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona, e annualmente eroga, quindi dà a fondo perduto, circa 150 milioni di euro. Questi molto recentemente a Natale si sono ridotti per via di una riforma fiscale che ci ha tolto circa 25 milioni di euro all'anno, di fatto raddoppiando le nostre tasse. Ecco, lei parlava di bandi, come si accede a questi finanziamenti? Abbiamo un bellissimo portale che si chiama www.fondazionecariplo.it con molta fantasia, e lì viene, cioè, si può vedere tutta la nostra attività, le call di questi bandi che poi peraltro vengono presentati agli operatori del terzo settore e del settore pubblico che sono i destinatari del nostro finanziamento ogni anno con degli eventi specifici per dare il massimo di risalto. Per darvi un'idea, abbiamo fatto quest'anno una presentazione via web e hanno partecipato mediamente agli eventi circa 5.000 persone, quindi c'è tra gli operatori c'è una grossissima percezione. Ecco, diciamo. C'è una realtà appunto di non profit a livello lombardo, perché voi operate soprattutto a livello lombardo, che è molto viva, forse meriterebbe maggiori fondi, maggiore attenzione, insomma, maggiori possibilità di finanziare queste attività che si basano molto spesso sul volontariato. Sì, è anche un momento storico che richiede questo tipo di attività, perché il welfare pubblico, diciamo un po' in ritirata, sta un po' lasciando spazio alla capacità della comunità di attivarsi con il volontariato e con altre forme di più o meno organizzate di azione, e questo ha bisogno poi di un accompagnamento certo. professionale e social housing, quindi di iniziative che non sono di edilizia pubblica ma sono di appunto soggetti del terzo settore o nel nostro caso anche di fondi immobiliari etici che realizzano case da concedere poi in affitto a prezzo di costo, quindi a canoni molto calmierati, oppure a soggetti che hanno particolari categorie di disagio e di vulnerabilità, quindi non so, ragazze madri oppure a genitori separati o ragazzi con delle disabilità. Ecco, ma che differenza c'è tra i classici alloggi popolari, la classica edilizia popolare? Intanto c'è una differenza di destinatario. L'alloggio popolare è per l'estremamente povero, quindi 100 euro al mese di affitto. L'housing sociale è per una fascia intermedia tra l'edilizia popolare e quella di mercato, quindi siamo sui 400 euro al mese, che poi a Milano comparano tranquillamente con 1000 euro al mese di livello di mercato degli affitti. E poi c'è la gestione, che è tutta in campo privato, quindi con delle organizzazioni, con una partecipazione degli inquilini a una comunità e a dei servizi, con una autogestione sostanzialmente, a differenza del pubblico che invece gestisce dall'alto in qualche modo. Ecco, quindi in qualche modo voi integrate una realtà che si muove secondo delle logiche private, e con le vostre integrazioni questa realtà riesce a offrire questi servizi a dei prezzi calmierati, appunto. Sì, questa è la nostra speranza, poi è lo sforzo, diciamo. Beh, così. Però ci sono state già iniziative sì. concrete, da 10 anni che lavoro sì, in questo sì. campo, qualche casa l'avrà costruita per essere sì, concreti. Sì, ci sono dei quartieri meravigliosi, anzi c'era una grossa scommessa, cioè che le persone veramente capissero un po' il disegno complessivo e si attivassero, e siamo andati un po' in eccesso di attivazione, perché la gente fa tantissimo, poi si relaziona tantissimo, molto di più di quello che avremmo immaginato all'inizio, quindi... Questo sia sul fronte della domanda sia sul fronte di chi deve fare queste cose, quindi anche per i fondi, per le imprese edili c'è una attenzione a questa realtà. Sì, da un piccolo esperimento che doveva essere di 50 milioni è nato un programma da 3 miliardi di euro, poi con tanti partner, la Cassa Depositi e Prestiti, la Regione Lombardia, banche, assicurazioni, enti previdenziali. E quindi oggi hanno completato, si sono completati una quarantina di cantieri, molti in Lombardia, e a regime saranno 300 i quartieri realizzati con questo schema. Ed è anche una realtà che responsabilizza di più le persone, perché sappiamo anche i problemi che ha la classica edilizia popolare, dove molto spesso i problemi appunto di manutenzione di questo patrimonio sono molto rilevanti. Ma mi dicono dalla regia che sono pronte le notizie sul traffico, ci fermiamo un attimo nel nostro colloquio con Sergio Urbani, segretario generale della Fondazione Caripro. Restate con noi, a tra poco. Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Incontri. When you crack the sky, scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. Ancora. ancora con Cat Stevens riprendiamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a quanti sono rimasti con noi, buonasera a quanti sono arrivati ad ascoltarci. Facciamo un piccolo riassunto della prima parte. Stiamo parlando con Sergio Urbani, segretario generale della Fondazione Caripo. La Fondazione Caripo è una delle più grandi, anzi la più grande fondazione bancaria, nata negli anni 90 con il passaggio a società per azioni delle casse di risparmio. La cassa di risparmio delle province lombarde è passata sotto il controllo della Fondazione Caripo, che però lentamente ha anche ceduto il controllo, adesso dicevamo prima, a un 4% delle azioni della Banca Intesa, di quella che è diventata Banca Intesa San Paolo. Fondazione Caripo ha soprattutto un compito di beneficenza, di filantropia, gestendo appunto i proventi finanziari del suo patrimonio a favore delle realtà sociali. E ci spiegava Sergio Urbani, ci sono periodicamente dei bandi a cui accorgono molte più realtà di quelle che riescono poi ad ottenere i soldi, perché la realtà in fondo del non profit, del volontariato in Lombardia, così come nel resto d'Italia, è particolarmente sviluppata. Abbiamo parlato anche dell'housing sociale, di queste iniziative di edilizia popolare molto particolari che affiancano l'iniziativa privata con quella pubblica, in cui peraltro Sergio Urbani è stato per 10 anni responsabile per la Fondazione Caripo. Però torniamo a noi, Sergio Urbani, lei non pensava quando si è iscritto all'università di fare il segretario generale di una fondazione filantropica. Cosa voleva fare da piccolo? Avrei voluto fare il professore universitario, però ho dovuto andare a lavorare perché diciamo non sono universitari, lavorano peraltro, sì, ecco. Però no, iniziare partita... certamente la carriera un po' complessa, soprattutto all'inizio, soprattutto adesso. Esatto, all'inizio non ce l'ho fatta anche per questioni di mantenimento. Poi ho lavorato circa 10 anni nel mondo della finanza, del cosiddetto investment banking. Quindi del profit vero e proprio. Di profit quello, duro proprio. Quello che vuole fare i soldi con i soldi. Bravissimo, la finanza per la finanza, i soldi per i soldi. E lì, nonostante l'ambiente fosse molto bello e stimolante, forse ho sentito Cat Stevens una volta di troppo, diciamo. E la fortuna ha voluto che in quel momento la Fondazione Cariplo cercasse una persona per gestire un'iniziativa di finanza etica, quindi un prodotto complesso, uno strumento finanziario, un progetto complesso, e quindi c'è stato un incastro fortunato, mi hanno scelto. Ecco, finanza etica sembra un po' un ossimoro, come si dice, la finanza può essere anche etica. Sì, bisogna tornare all'affermazione di prima, la finanza è per la finanza. La finanza non dovrebbe essere per la finanza, il soldo comanda sempre, purtroppo. Però quando il soldo comanda per comandare, si perde. Se invece la finanza è di servizio, può essere anche etica. Cioè deve diventare uno strumento, non deve essere un fine, ma uno strumento in grado appunto di moltiplicare, se possibile, anche le risorse, ovviamente senza fare reati, ma moltiplicare le risorse in maniera positiva, affiancando la crescita della società e affiancando anche la crescita appunto di quello che potremmo chiamare il bene comune. Io credo proprio di sì. E tra l'altro con questa esperienza poi ho fatto un viaggio, una passeggiata, non saprei come definirlo, anche un po' fuori dei confini dell'economia formale e della finanza, perché poi il non profit unisce l'economia come vincolo, perché i conti devono tornare, con una spinta valoriale, di relazione, anche di gradevolezza del vissuto, che poi è una benzina molto importante, di tempo non economico delle persone, che sono energie veramente interessanti e di cui siamo ricchi e non ci sono debiti, diciamo, in quel campo. Si ha spesso l'impressione che su questo fronte si aspetti molto dallo Stato, che lo Stato abbia il compito di dare i servizi sociali, di dare delle strutture adeguate, di rimediare ai bisogni appunto fondamentali, ma c'è anche molto, molto privato, c'è anche molto non profit in questa dimensione, che forse si muove un po' sotto traccia, ma si muove in maniera molto sensibile e significativa. Ma io lavoro in Lombardia e la Lombardia è veramente ricchissima come tessuto di questo non profit auto-organizzato. È un po' come se fosse un momento storico in cui è finita l'epoca dell'ho diritto, no? C'è lo Stato che se ne occupa, c'è il welfare, perché lo Stato non ce la fa più, quindi fa quello che riesce, e quindi non ho più diritto, devo darmi da fare in modo organizzato. La Fondazione Cariplo è uno strumento che aiuta il suo territorio a darsi da fare, diciamo così, quindi noi da soli non facciamo niente. Se c'è un territorio che possa ricevere i nostri stimoli e anche i nostri finanziamenti in chiave progettuale per fare delle cose, invece Ecco, ricordiamo i quattro ambiti che dicevamo nella prima parte in cui si svolge l'attività della Fondazione Carpio, che appunto sono gli ambiti di interesse della vostra attenzione verso il territorio. Quali sono? Sì, sono l'ambiente, l'arte e cultura, la ricerca scientifica e i servizi alla persona. Quindi sono quattro competenze verticali profonde, perché tra l'altro abbiamo un'equipe, un team di 65 persone con una capacità curriculare incredibile, e quindi sono bandi che, aree che poi generano dei bandi spesso, sempre più spesso anche intersettoriali, in cui queste competenze si uniscono rispetto a un programma, diciamo. Ecco, quindi non vi limitate a dare dei soldi, ma affiancate anche queste iniziative per verificare innanzitutto che i soldi vengano spesi bene e poi che l'efficienza dell'organizzazione sia tale da garantire anche un ritorno per la collettività. Sì, sì, noi daremo sempre meno soldi, è una brutta notizia, ma è anche un dato di fatto, perché se aumentano le tasse, certo, no, i soldi sono sempre meno. Beh, poi siamo in un periodo di interessi zero, anche le fondazioni devono fare i conti con la finanza, e sì, quindi la finanza, avere interessi a un capitale è sempre più difficile. Eh sì, attendere renderà un po' meno, attendere, certo, per ora va abbastanza bene. Però invece aumenta la nostra capacità di aiutare gli enti in percorsi innovativi. Noi speriamo di essere sempre più percepiti come un interlocutore che aiuta a fare la differenza in un percorso di innovazione. Questo... Ecco, anche nel campo del, appunto, dei bisogni essenziali c'è bisogno di innovazione, anche nel costruire delle case c'è bisogno di innovazione per spendere meno e farle meglio, ma anche per restaurare un'opera d'arte o anche per intervenire appunto dove ci sono delle necessità. Cosa intende per innovazione in questa prospettiva? Sì, la crisi è un momento straordinario per fare innovazione, perché l'innovazione vuol dire uscire da un paradigma e trovarne uno nuovo, quindi anche un po' rompere gli equilibri e anche dare fastidio a qualcuno, diciamo così. L'innovazione è un modo diverso di fare le cose con più risultato o con meno fatica, meno costi. Quindi l'innovazione è un percorso senza termine, diciamo così, è un po' un rimettersi in gioco, appunto, dai servizi alla persona, come diceva, il restauro, ma anche l'agricoltura, che sembra una cosa assolutamente, certo, acquisita. In realtà noi abbiamo un progetto che si chiama AgriSeed, che consente di... studia delle modalità per coltivare il grano piuttosto che altri prodotti con meno acqua, in ambienti più difficili, con una maggiore qualità o cose di questo genere. Quindi è un'innovazione, una ricerca scientifica che porti a un nuovo vaccino, cose di questo tipo. Che innovazione pensa di poter dare lei da qualche mese, appunto, segretario generale della Fondazione Carpio, anche se è una realtà, anzi proprio perché è una realtà che conosce molto bene, che obiettivo ha a medio termine, o che sogno ha a medio termine all'interno della sua fondazione, che cosa vorrebbe fare, che cosa è il suo, uno dei suoi punti fermi, uno dei suoi punti d'onore, possiamo dire? Ma forse un punto d'onore è aver portato la mia esperienza professionale di carattere finanziario, un po' strutturata, e averne fatto un prodotto filantropico moderno, quindi qualcosa che ha un obiettivo di bene comune, di bene pubblico, ma che poi ha una complessità intrinseca notevole per raggiungere un obiettivo altrimenti non conseguibile. La Fondazione Carpio ha un ottimo potenziale in termini di filantropia moderna, quindi più di progetto, non solo con contributi a fondo perduto, ma anche con il cosiddetto capacity building, aiutare gli operatori a crescere, piuttosto che con strumenti che gli aiutino a essere forti anche a livello patrimoniale. Quindi tante azioni, sì, coordinate, tante competenze coordinate in un programma unitario. Ecco, la filantropia non deve passare di moda, lei ha pronunciato la parola moderna, una filantropia moderna, si pensa che la modernità sia qualcos'altro, invece la modernità è anche un bene comune, è anche un dividere meglio le risorse che ci sono, le risorse anche che una certa civiltà delle macchine, dell'automazione, dell'elettronica o di internet può portare con sé. Quindi in questo senso c'è bisogno di uno spirito che sia appunto di innovazione nella tradizione, possiamo dire, ma con un occhio al bene comune. Sì, la filantropia è incredibilmente moderna, è un prodotto molto evoluto, diciamo, quindi arrivarci è un risultato che, tra l'altro, anche a livello di esperienza personale uno si può permettere intorno ai 60-70 anni, diciamo, quindi sì. Per esempio chi lavora in Fondazione Carpio, che ha mediamente 40 anni, è un privilegiato perché può fare con largo anticipo. Ecco, in questo senso gli americani, anche perché sono forse più ricchi, hanno una, sì, grande tradizione di filantropia. Che cosa possiamo imparare dagli americani? E che cosa cosa non dobbiamo imparare, magari. Ma allora c'è un nostro consigliere di amministrazione che dice che la filantropia è quanto di più egoistico si possa fare. Cioè, questo egoismo del dono, del giving back, c'è molto in America. Cioè, chi ha qualcosa da un po' la coscienza da pulire, oppure ha avuto molto della sua comunità, che ritorna e si sente bene lui. Questo è una cosa molto bella. Quello che secondo me non dobbiamo imparare è un po' un distaccarci dalla gradevolezza del quotidiano in modo diffuso. Lì si fa tanto, ci si concentra tantissimo sul lavoro, ci si concentra sul fare tanti soldi, fare il mucchio, diciamo, e poi si perde invece tutto il resto, un po' la lateralità della vita. Ecco. Ecco, in questa prospettiva possiamo concludere dicendo che comunque il bene comune non deve passare di moda, il bene comune è qualcosa che va in fondo riscoperto giorno per giorno. Sì, è molto bello, e se passa di moda staremo molto peggio. Ecco, quindi anche la Fondazione Caripo ha un compito da assolvere, diciamo che cerca di assolverlo, non può risolvere certamente tutti i problemi, però fa un passo nella direzione giusta. Allora, un augurio di buona Pasqua finale per quello che resta ai nostri ascoltatori può essere quello di allargare la partecipazione, anche di conoscere meglio queste realtà che sono a fianco appunto di realtà che si muovono per una maggiore, diciamo, la giustizia sociale, ma continuiamo a chiamarlo bene comune. Possiamo concludere così, Sergio Urbani? Sì, bene comune, grazie a tutti, e vi prego, seguiteci, perché il rapporto con le persone che poi beneficiano della nostra attività per noi è fondamentale. Grazie a Sergio Urbani di essere stato con noi in questa serata di Pasqua. Abbiamo parlato di bene comune e quello che auguriamo a tutti quanti anche nella prospettiva appunto della Pasqua. Grazie anche a Filippo Reggi in regia e grazie a Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.